Sipario aperto. Incontri e appuntamenti con il teatro vivo a cura di Lucio Romeo. È oggi alla ribalta la compagnia stabile del Teatro Filodrammatici di Milano con Diana, la Mazurka Bleu di Ciro Fontana. Buonasera, eccoci nel vivo della stagione teatrale che ormai si è scatenata a Roma e a Milano, da cui oggi, come avete sentito, vi sto parlando. Una stagione che si sta aprendo all'insegna dell'entusiasmo, del successo, della vitalità e di tante altre cose belle. Le stabili, anche se qualche debito da zerare ce l'hanno, godono ottima salute. Le grandi cooperative continuano il loro lavoro capillare e coinvolgono, caso dell'ATER, organismo Emilia Romagna, nomi come Aldo Trionfo e Gianfranco De Bosio. Al Ministero si ammonticchiano 800 e più domande di nuove compagnie, gli spazi teatrali si moltiplicano e non sono solo cantine ed ex garage. Ma a Roma, ad esempio, due grandi cinema di seconda visione diventano sale teatrali. Nuove regioni cercano di portare la loro voce dal sud, come Calabria e Puglia. Il teatro privato cerca purtroppo di non essere solo consumistico. Insomma, tutto va benissimo. Soprattutto perché anche i giovani, in misura sempre maggiore, preferiscono finire la propria serata meglio in un teatro che in un cinematografo. A Milano vi sono 20 sale di teatro. E visto che siamo qui, veniamone a vedere una più da vicino. Uno dei più antichi teatri di Milano, proprio al centro, dove magari ci si passa accanto più volte al giorno, proprio ad un passo della scala, tanto vicino da sentirne quasi la musica. Il teatro dei Filodrammatici, in via Filodrammatici 1, il nostro ospite di oggi. 250 posti, poltrone di velluto, sipario rosso con le frange. Insomma, tutto quello che può dare un teatro all'antica, senza panche di legno e buio, perché impegno non deve per forza coincidere con scomodità e provvisorio. E in questo teatro oggi vi recita e canta, fra gli attori della stabile, un nome caro ai milanesi, Millì. Chi si ricorda del Diana, la sera di un giorno di marzo? Dopo quel giorno un altro mattino dopo, c'è sempre un mattino dopo. Milanesi, l'orrendo delitto consumato ieri sera non ha forse l'eguale. Nulla dal governo si lascia intentato per rintracciare e colpire inesorabilmente i responsabili. È un dovere umano e civile. Il prefetto Lusignoli, che percorre l'Italia, si è abbattuto in questi giorni anche su Milano, la città che tutti conclamano eletta e civile. Mantenete la calma serena dei porti. Questi attentati criminali si risolvono come sempre contro di voi. Da quando il socialismo ha illuminato le vie dell'ascensione proletaria, attendete che l'ora tenebrosa passi. Verrà l'ora delle sorti migliori. Bombe, attentati, morti, feriti, terrorismo, violenza, paura. Una storia di oggi? No, una storia di ieri, che purtroppo somiglia in modo allucinante ad una storia di oggi, anche se, ripetiamo, tutto è già accaduto ed è cominciato un giorno come tanti, a Milano, il 24 marzo del 1921, in un piccolo bar nei pressi di Porta Venezia. Signore e signori, buonasera. Vi ringrazio di essere venuti qui nel mio piccolo caffè di Porta Venezia. Ogni giorno un po' di gente ci viene e a me piace sentire quello che dicono. È difficile però che si trovino d'accordo, così io non ho mai capito se hanno ragione tutti o se non ha ragione nessuno. Beh, l'importante è che nel mio locale, chiamiamolo così, ognuno, con la dovuta prudenza intendiamoci, dice sempre quello che vuole. E con prudenza, certo. Ci mancherebbe altro che la questura mi ritirasse il permesso. Ma è così difficile vederli contenti. Pazienza. Vorrei solo parlarvi di gente che era qui nel mio caffè nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 marzo 1921. Gente che ho rivisto nella serata e poi prestissimo al mattino del giorno dopo. Quella sera al Diana rappresentavano l'operetta. Qualche mio cliente dice che la vita è un'operetta. Ma anche questa è una parola. Per voi ho scelto a caso un giorno della vita. Uno di quei giorni che entrano nel mio caffè come la gibigianna col sole. Un sogno? Eppure ci hanno lasciato la pelle in tanti quel giorno. 23 marzo 1921. Quella sera al Diana si dava la mazurka bleu. Bimba, la tua testina al matrimonio. Signora, allora questo caffè arriva? Subito. Ecco il suo caffè. Grazie. È amaro. Ma cosa pretende? Non siamo mica al cova. Beh, ma senza zucchero è amaro anche al cova. Me ne metto un altro cucchiaino per piacere, va? Quello che costa la roba al giorno d'oggi e con le spese d'esercizio, poi. Una persona, lei? Ci mancherebbe altro, col rischio che c'è in giro. Con la scusa che viene un socialista a bere il bianchino. Passano i fascisti e ti sbattono tutto per aria. Se poi viene un fascista, c'è caso che capita l'anarchico e ti vedo e non ti vedo. Ah, io sono indipendente. Io sono iscritto alla Lega per la cremazione. Sarà. Intanto è indietro di 27 caffè da pagarmi, di cui, vero, 6 corretti con grappa del Piemonte. Lei mi fa venire in mente le disgrazie della vita associata. Cominciamo così, paga i debiti. Venga qua, venga qua. Tenga, 50 centesimi da conto e mi ascolti. Che da me basta che si voglia, c'è sempre qualcosa da imparare. Grazie. Vede, cara signora, la socialità, ovvero la necessità di vita associata che si è fatta sentire da quando l'uomo è venuto fuori dalle caverne, pone a tutti noi dei terribili condizionamenti. Sì, il disordine di quelli che si pestano su per la politica e chissà mai cosa sperano di trovare, la vita, che è sempre più cara. Vedo che mi ha capito bene, eh? Lei lo sa che cos'è la politica, che cos'è l'economia? Sì. Guardi qua, da stamane hanno chiuso le fonderie Fréjus di via Moncalieri. Alla Fiat hanno preannunciato ufficialmente 1500 licenziamenti. Per me questo 1921 è un anno bisestile. Signora, buongiorno. Il lattaio di Piazza Morgagni è chiuso per matrimonio. Cosa? Ma sì, del suo nipote in campagna che sta precotto. Me lo dà lei un po' di latte? Ma certo, se per fare un piacere alla tua mamma, che è così gentile che quando la bronchite mi fa sempre le iniezioni. Oggi ho visto una festa proprio bella. Sì? Sono stata all'inaugurazione del nuovo palazzo dei grandi magazzini. Ah, la Rinascente? Sì, in Piazza del Duomo. Quel palazzone che si era rovinato col fuoco. E adesso l'hanno fatto su di 4 piani, pieno di abbondanza di tutto. Oh, mi sono proprio divertita. Quante commesse, così eleganti, che se io potessi farmi assumere. Buonasera. Buonasera. Salve, la Paiani. Salve. Un bicchiere di sé. Oh, signor Libero, e sua moglie l'aspetta, eh. Ha detto che stasera vengono i cugini sposi in viaggio di nozze. Come? Ma sì, quelli dei Bricchi. E dice che se io ci curo Ricchetto, che va a dormire presto, vorrebbe portarli a teatro. Che bella notizia che mi dai. E quando ripartono? È domani mattina, almeno lo spera la signora Bice. Mi va la faccia della sincerità. Già, io ai parenti gli voglio bene se stanno alla larga. Ecco il suo senso. Ah, grazie. A teatro e dove? Ah, aspetti, aspetti, glieli leggo io, eh. Ah, eccoli qua. Dal Verme, degli Anice di Catalani, serata di Ester Mazzoleni, ore 20:45. Non mi piace quella linea. Manzoni, amanti di Donè, serata di Tullio Carminati, ah, Tullio ore 21. Carminati. Lirico, il nuovo casino di Città di Rote, un milanese in mare, ore 21. Olimpia, guerra in tempo di pace. Ah, filodrammatici, la Lombarda. Teatro del Popolo Israel di Bernstein, Carcano, la casta Susanna, Diana, compagnia d'Arclay, la Mazurka Bleu di Lear, ore 20:45. Rita, se vai a casa, passa dentro da mia moglie e dille che si prepari. Stasera si va al Diana coi cugini. Che gioia. No, ma questo non dirglielo. Arrivo subito, eh. E allora, i suoi scolari che cosa fanno? Studiano? Chiacchierano? Sono i momenti migliori quelli che passo con loro. Non sono ancora contaminati dalla società. Meno male che le è rimasta la fiducia in qualche cosa, eh. Crede? Lei mi conosce. Dica se merito questa paura, il disprezzo della gente. Ma non si agiti così, signor maestro. Mi pare che esageri. Alla sua scuola, la moglie, un bambino simpatico. In via Spontini tutti parlano così bene di lei. Si adopera tanto per costruire una società migliore. Ma dopo tutto, È un modo nobile per impiegare il tempo libero. Sa che cosa faccio io invece? Con un mazzo di carte tiro su un bel castello di 5 piani. E come ci godo, eh? Anche se so bene che poi cade. Lei scherza sempre, beato lei. Ma guarda come allegri il signor Labaiani. Sicuro che il signor maestro ha contato su qualche storia da ridere. Lucia, un rapino per mandare giù il tossico. Ciao, Rizza. Grappa del Piemonte? Sì, grazie. Poi Pizzari, guarda che ti devo parlare. Va bene. Girardengo ha vinto la Genoa Nizza, eh? E così, questa sera al Diana. La mazurka coi cugini sposi in viaggio di nozze. Magari saranno già arrivati, eh? Oh, già. Sento un'aria di malandare che sarà meglio per lei chiudere bottega più presto. E lo dice a me, o guardi che io non c'entro, con quell'aria di malandare che dice lei. Io ci canto sopra e mi accontento. Il circolo? Il circolo chiuso. Vuol dire il circolo di Foro Bonaparte. Sì, ma com'è andata? Domenica si sono sparati a Greco. Ho visto io passare un taxi percorso Buenos Aires. C'era sopra un morto, fatto su in una bandiera tricolore. Era un giovane legionario di Fiume. Il prefetto ha fatto sospendere i funerali, forse ha fatto bene. Ma ieri notte il questore ha fatto occupare dalle guardie regie la sede del fascio di via Monte di Pietà. Hanno perquisito tutti i locali, ma non hanno trovato niente. Ma chi vuol darla bere, questore? Ti avrà forse mandati a nascondere e rivoltare le bombe, questo sì. No, non diciamo cose di cui non siamo sicuri. È sempre così voi riformisti, eh? Prudenza, coscienza, serietà, intanto i fascisti ci fanno fuori. Proprio ieri sera, erano appena passate le 10. Ero lì con qualche compagno nella sala d'entrata del circolo, verso Foro Bonaparte, davanti alla scuola tecnica Piatti. Nella sala di conferenze c'era riunito il consiglio direttivo. A un certo momento sento battere la porta e apro. In strada c'erano 7-8 persone, 2 armate di rivoltelle e le altre coi bastoni. Poi dico, un momento, chi siete? Cosa volete? Mi sono preso una legnata in testa. Ho fatto appena in tempo a sentire gridare, a noi, in alto le mani! Sparavano. E allora sono corso fuori nel cortile verso Corso Garibaldi, lì ho trovato degli altri compagni. In quel momento stavano arrivando 2 guardie regie, fa, cosa succede? Dove corrono? Dico, ma non sente che sparano? Stanno devastando il circolo socialista! E siamo rientrati con le guardie. Il brigadiere si guarda in giro e fa, oh, è sempre esagerati questi socialisti! Vedendo che per terra c'era solo qualche bicchiere rotto. Ma in terra, dietro il bancone, c'era il nostro povero Inversetti morto. Ehi. Bel colpo di rivoltella in fronte. Ehi, loro. Cambino discorso, se vogliono rimanere qui. C'è fuori il Veneroni e qualche volta entra. E io al mio locale ci tengo. E chi è questo Veneroni? Uno delle squadre abita sopra di me. Beh, io me ne vado. Oh, caro signor maestro, che miracolo vederla qui. Allora, dica la verità, qualche vizietto ce l'ha anche lei. Un bicchiere di seltz. Buonasera. Sera. Va bene, stia tranquillo che a sua moglie non dirò niente. Signora, un caffè. Subito. Signora, ecco un buon consiglio. Dove trascorrere le vacanze pasquali? La risposta la offre subito la bella cittadina di Pegli, a 20 minuti da Genova, col suo dolce clima, l'incantevole suo mare, il profumo dei suoi fiori e il Grand Hotel Mediterraneo, con la sua proverbiale ospitalità e i miti suoi prezzi. Se non fosse perché sono legata come una catena a questa bottega, e pensare che con le mie qualità... Sente, signor maestro, fa piacere vedere che la gente sana c'è, come gente che gode della vita, che deve essere goduta senza tante idee sballate per la testa. Ecco, peccato che la giunta municipale abbia aumentato da oggi il dazio sulla selvaggina e il polame. C'è gente che gode, ma c'è gente anche che spara. E gente che muore senza né colpa né peccato. Spero che lei voglia alludere all'assassinio del nostro giovane camerata. Sì. Già, in Viale Monza, Greco. I morti sono italiani, cittadini milanesi. C'è differenza, signor maestro. Ma nessuno ha sparato contro il corteo. Soltanto un matto avrebbe potuto farlo. Lo dice lei. Erano giovani che cantavano giovinezza, ma già per certa gente questa è una colpa irreparabile. Non sappiamo bene com'è andata. E si trattava di una manifestazione patriottica per commemorare le 5 giornate di Milano. No, no, diciamo le cose come stanno. Il corteo si era già sciolto, ma un buon numero di voi, armato naturalmente, si inquadrava militarmente verso Greco per una spedizione punitiva. Ma questa espressione, poi... Ebbè, l'avete inventata voi. Ci siamo andati a Greco per rispondere a gravi provocazioni. Ah, sì? E sapete quali erano queste gravi provocazioni? Pare che qualcuno abbia detto che i fascisti compiono le loro gesta nel centro di Milano, ma se ne guardano bene di avvicinarsi a qualche centro operaio, perché pare che abbiano FIFA. Noi non chiediamo altro che la si smetta di screditare la guerra e di svalutare la vittoria. E sarebbe molto meglio smetterla di affibbiare agli altri le responsabilità di violenze e disordini che si sono direttamente organizzati. Proprio oggi, 23 marzo 1921, mi tocca di sentire certe cose. Proprio oggi che sono trascorsi giusto 2 anni dal giorno in cui abbiamo fondato i fasci italiani di combattimento. Chiedo scusa, sai, sono un po' fuori. Ma voi che programma avete? Che cosa volete? Lo diciamo senza false modestie. Noi vogliamo governare la nazione. Ah, ecco. Con il programma necessario ad assicurare la grandezza morale e materiale del popolo italiano. Noi agitiamo dei valori morali e tradizionali che il socialismo trascura o disprezza. Noi non crediamo alle rigide cornici dei programmi dogmatici. Noi ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici, conservatori e progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalitari e illegalitari, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, in una parola, di storia. Ah, ma mi sembra piuttosto impegnativo come programma. Fra poco il fascismo dominerà la situazione. Dietro le armature possenti, tutto il cantiere fascista è all'opera. L'ho letto stamattina sul Popolo d'Italia. Auguri e saluti. E a nanna presto, mi raccomando, con quel cuore che ha. Li voglio sani, i miei clienti, io. Lasci fare a me. Buonasera. Buonasera. Signora, lei sentirà presto parlare di me. Chi si ricorda del Diana, la sera di un giorno di marzo, dopo quel giorno un altro mattino dopo. C'è sempre un mattino dopo, c'è sempre un mattino dopo. Una cassetta di ferro, dinamite, l'avevano messa su una porta di fianco. Non è stato gettato niente nella sala. La bomba è scoppiata di fuori. Andate a vedere le botteghe di fronte. Le saracinesche? È come se la mano di un mostro le avesse fatte su. Sembrano cartine da sigaretta, arricciate come un cartoccio. Pezzi di ferro buttati là come foglie secche. Cornicioni per terra. La porta non c'è nemmeno più. C'è una gran buca, una specie di terremoto. La farmacia del dottor Cacciaguerra è distrutta, lì sull'angolo. Maledetti! Chi ripaga questi morti? Ho visto un camion pieno di fascisti verso via San Gregorio. Di sicuro andavano alla sede del giornale Avanti. Lì chissà quante bombe si troveranno. Lì sono tutti sovversivi. Io ero in teatro, nel palco numero 13. Un'impressione come di essere stordita. Un gran colpo. Mi sono sentita mancare il respiro. Vicino a me una signora era svenuta e perdeva il sangue dalla testa. Non so più niente di mia sorella. Come faccio a tornare a casa? Chi lo dice la mia mamma? Vengo dalla guardia medica di Porta Venezia. Non sanno niente. Mi hanno detto che all'ospedale maggiore hanno portato 3 donne. Non si possono riconoscere, tanto sono conciate. Tutte morte. Alla guardia medica è arrivato un signore fuori di sé perché al Diana c'era tutta la sua famiglia questa sera. La moglie è grave all'ospedale. Un figlio di 16 anni l'ha riconosciuto lì, morto, su un tavolaccio. Per me è tutta colpa dei rossi. A forza di lasciarli fare, chissà dove si andrà a finire. Ce n'è ancora troppi fuori. E stasera l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Chi può aver avuto il coraggio? I nichilisti. Ma che, gli anarchici? Io ho un vicino di casa anarchico. Quando lo trovo per le scale faccio sempre finta di non vederlo. A me gli anarchici mi fanno paura. I fascisti lo dicono chiaro che cosa vogliono. I socialisti anche loro. Ma gli anarchici tacciono e buttano bombe. Sono stati loro, gli anarchici. La Baiani, la Baiani. La Baiani ha sentito. È la rovina. Ah, e quei bizzarri. E sua moglie, i suoi parenti? Non sono arrivati, per fortuna. Ah, avete scampata bella, signor maestro. Su, andiamo a casa. Mi lasci qui ancora un momento. Mi sembra d'essere paralizzato. È finita. Ma che cosa è finita? Certo può capitare di tutto al mondo, anche questo. E la colpa sarà nostra. Noi predichiamo il bene e ci mettono alla berlina macchiandoci le mani di sangue. Ah, non credo... Questa volta cercheranno dei colpevoli più comodi. Ha sentito? Già spunta fuori la parola anarchici. C'è che differenza fa? Veda l'ironia della sorte. Non hanno chiamato me. Me, si figuri. Anarchico pericoloso per mandarmi via dal fronte. Ma non si metta sempre al centro dell'universo politico. Non si illuda. Io sono una cosa sola col partito. Ah, è un bel ingenuo lei. Ma che cosa vuole che siano i partiti? Parlo del mio. Avrà mille difetti, ma su un punto non si discute: la libertà e la dignità dell'uomo. Ecco perché lei ha mai sentito parlare di qualche capo popolo disposto a confessare di battersi per delle cause ignobili. Sta fresco. Come? E lei vorrebbe farmi credere che oggi là al bar il fascista abbia esposto dei propositi nobili? Beh, dipende dall'angolo visuale. Quei propositi che lei ritiene ignobili vanno trovando dei consensi, invece. Io non mi stupirei se fra qualche anno si riempissero le piazze di folle osannanti e plaudenti alle avventure più balorde e pericolose. Ah, questo non avverrà mai. La violenza non serve. La violenza si ritorce. La sala sembra un campo pieno di terra. Solo che invece di spuntarci i fiori o il grano turco, ci spa. Solo che invece di spuntarci i fiori o il grano turco, ci spuntano poltrone, sedie, tavolini, pezzi di sipario. Una platea quasi vuota, con qualche poltrona occupata solo da pezzi di gente. E l'orchestra, un braccio con un archetto in mano. È orrendo. Orrendo. E non c'è proprio nessuna giustificazione. Noi abbiamo sempre manifestato la nostra avversione alla violenza politica personale che non conclude nulla. Venga via, mille signor volte maestro. Di più ci schieriamo contro il delitto comune. Sì, perché questo non è altro che un infame delitto comune. Ci sono le guardie, che non ha riscontro maestro. Nell'animo di milanesi. A teatro, dove vanno donne e bambini. All'operetta, che non è certo un motivo di indicazione politica. Chiunque sia stato, colui che è gettato nel Diana l'ordigno di morte, se aveva una causa qualsiasi da difendere, questa causa l'ha tradita. Per di più avrà scatenato altre violenze di rappresaglia in una catena che non finirà mai. Basta con l'odio, basta con le aggressioni, basta, basta! Non so più niente di mia sorella. Come faccio a tornare a casa? Chi lo dice alla mia mamma? Mia sorella suonava il violino in orchestra. Suonava il violino al Diana. C'era una volta, come una favola, dicono che c'erano i sentimenti. C'era una volta, dicono, uomini e donne capaci di capire le disgrazie degli altri, capaci di voler bene, a tutti no, che troppo è pretendere, ma almeno ai più vicini di cordata. C'era una volta, dicono, chi amava, se sarà stato vero, chi lo sa, forse faceva apposta, fingeva, per non vergognarsi di avere il cuore arido come un campo che non dà. Passa l'acqua sotto i ponti. Adesso si vergogna chi crede di sentire germogliare dentro la debole fogliuzza dell'amore. Forse adesso fanno apposta. Come poco elegante, però, piangere sulle carni straziate. È tutto normale. Abbiamo in studio a fare il punto sia sullo spettacolo che sull'attività della compagnia stabile del teatro Filodrammatici Ciro Fontana, autore del testo, il regista Filippo Crivelli e Paride Calonghi e Riccardo Pradella in rappresentanza di quella che loro definiscono Repubblica, cioè la loro compagnia. Una compagnia che alterna Pirandello a Betti o a Goldoni, ma che dà anche ampio spazio alle novità di autori italiani, come si è visto. Sì, infatti quest'anno abbiamo aperto la stagione con la novità di Ciro Fontana, La Mazzurca Blu, e a febbraio andremo in scena con un'altra novità che è La Strana Quiete di Renato Mainardi. Quella di Fontana è una novità, come abbiamo visto, che si ispira a un fatto del passato, ma che significa chiaramente anche una storia di oggi. Certamente, questo è una specie di fissaggio di quello che io ho vissuto nella mia primissima infanzia e che ho constatato a distanza di molti anni che ripete concetti, situazioni, episodi e sentimenti che veramente continuano a rinnovarsi. e questo ritenevo opportuno, così che venisse conosciuto di più, perché questo episodio dell'attentato di Novitardo del Diana è stato anche direi simbolico, e l'esplosione della lotta del fascismo nascente con i suoi oppositori, cioè due modi diversi di concepire l'organizzazione della società, insomma l'eterna dialettica tra umanitarismo e dittatura. E effettivamente la storia va avanti per conto proprio, però insomma gli uomini piccoli continuano a vivere la loro giornata sempre nell'incertezza, sempre nell'angoscia e sempre direi nella solitudine e soprattutto nel non risolvere niente. Questo è il grave dramma. Crivelli, visivamente questa storia noi purtroppo la vediamo, la sentiamo, no, solamente visivamente appunto, c'era la saracinesca che si apriva e si chiudeva. Visivamente si svolge su due piani: uno un piano di realtà quotidiana, cioè la vita nel bar, gli incontri tra questi amici o pseudo amici, tra questa padrona del bar e appunto la vita spicciola di tutti i giorni. E poi il momento della bomba, dell'esplosione, che viene descritta attraverso un netto distacco dalla realtà e viene c'è un'estraniazione di tutti i personaggi e il racconto della strage del Diana viene fatto in un modo completamente distaccato, in una astrazione poetica, direi. Una conclusione che ancora non abbiamo, vedremo noi, l'interrogatorio, il momento chiave della vicenda in cui Bizzarri, il maestro idealista che era il protagonista, sarà interrogato e rilasciato da un squallido commissario di polizia che non ha il coraggio nemmeno di incriminarlo. No, perché si accorge che è una persona totalmente inoffensiva, cioè che vive in un suo mondo di ideali. Però il Bizzarri in questo tocca... si sente un fallito un po', no? La maggior parte delle persone è convinta che l'ideale umanitario sia assolutamente futile, irrealizzabile e quindi... E purtroppo però questo fallimento, diciamo, momentaneo perlomeno del Bizzarri si riflette anche sul piano privato. Si riverba anche sulla vita privata con una scena privata, di cui ve ne faremo ascoltare un breve inciso, che sia anche l'altra parte della storia politica, diciamo, che della è storia. Quella che conclude poi la commedia. Esattamente, la scena finale. Sono umiliato, Bice. Forse ha ragione la Baiani. È questa, solo questa la mia paura. Ragione? Ha ragione come? Che siamo inutili. Nemmeno a quei due poveri commissari che mi hanno interrogato sono stato utile. Cercavano qualcuno per dargli la colpa della bomba e invece sono qui. Compatito, innocuo, inutile. Ma ti hanno lasciato andare perché tu non c'entravi per niente col Diana. Dai, vieni, muoviti. No, lasciami qui ancora un momento. Mi sembra perfino che le gambe non mi reggano. Ma t'avrà mica picchiato? No, neanche toccato. Ma che società vogliamo costruire noi se tutti se ne infischiano? Io credo di combattere come posso le forze del male. Ma siamo troppo pochi a credere con sincerità in un mondo più bello. Dai, libero. Non cominciare adesso con le tue sentenze. Ma ti hanno lasciato andare, a ringrazia il cielo. Guarda, io non ti dico di cambiare le tue idee. Beh, però non puoi pretendere di predicarle agli altri. Un illuso che vive fuori dalla realtà. Ognuno nasce a modo suo, cosa ci vuoi fare? In questi tempi si parla, si parla tanto di politica. Ma in fondo la gente se ne infischia. E va incontro alla rovina. Ma guarda, per la maggior parte di noi, non so, un dispiacere in casa conta di più di una rivoluzione. Tu credi che gli uomini possano unirsi per creare la felicità universale? Ma fai benissimo. Io però non ci credo. Vabbè, ma questo però non ci impedisce di incominciare insieme un'altra giornata. Non vedo intorno che tristezza. Tristezza. Io credo che durerà per un pezzo. Hai sentito? Sì, vanno i tram. Dai, tu fai ancora in tempo a tornare a scuola come tutti i giorni. Non c'è neanche bisogno che ti giustifichi col direttore. Dai, andiamo. rientro della normalità, cioè la moglie che ritorna a casa a curare il bambino, Libero Bizzarri che ritorna alla sua scuola, la padrona del bar che riprende i gesti quotidiani del suo lavoro, abbiamo voluto innestare, proprio come un campanello d'allarme, la famosa ballata del Pinelli, cioè quella che ha segnato il famoso attentato di Piazza Fontana, che ancora adesso è vivo in tutti noi, proprio come un ricorso storico misterioso a distanza di quasi 50 anni. Andiamo adesso all'arresto di Labbaiani e di Bizzarri, quella che è praticamente la scena chiave, la situazione chiave di tutto il secondo tempo, quello che dà un po' il colore politico del dramma. Ecco, commissario, altre schede informative. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La bomba ce l'hanno messa gli anarchici. Lei non è convinto? Convinto, straconvinto, ma questo non fa parte delle nostre competenze. Del resto è tanto vero che sono gli anarchici che quando se ne pesca qualcuno non protestano nemmeno i socialisti, nemmeno i comunisti e nemmeno la Confederazione del Lavoro. Affari loro. Anarchici, anarchici, ma chi, chi? Averne uno sotto mano. Dentro, dentro. Ehi, ehi, Amilcare, svegliati che ci sono ospiti. Oh, signor. Sieda qua, Labbaiani. Sì. Uè, così, senza neanche chiedere permesso. Mi scusi, ma non mi sento bene. Ho il cuore un po'... E allora... E allora perché non si fa portare in infermeria? Su nomi? Chiederò. Cosa è successo fuori? Voi due venite da fuori, no? Una bomba aldiana. Una bomba? Un mucchio di morti, di feriti. Uno strazio. Bella roba. Col bel risultato di portarci via anche la cuccia del cane. E siete stati voi? Noi a fare che cosa? A mettere la bomba. Ma non dire stupidate. Chi fa queste cose in galera non ci va mai. E perché? Perché può. Ecco, bravissimo. Può. Signore, senta. No, guardi, rispettabile nel mio lavoro, sì. Signore, no. Parlo. Lo lasci sdraiare un po' comodo. Soffre di cuore. È la prima volta, sa, che viene qui. E fa una certa impressione. Bizzarri, Bizzarri in direzione. Addio, Labbaiani. Mi raccomando, non perda la testa, eh? Che non ne vale la pena. Meo, è uno di meno. Io però preferivo l'altra brana. Vuole un po' d'acqua? Grazie. Proviamo. Ecco qua, non c'è altro. Grazie. Per me adesso ci vorrebbero due gocce di digitale. L'acqua. L'acqua è come noi. Nasce senza colore, trasparente. Fa piacere vederla, perché non ha niente. E il niente non è affatto disprezzabile. Ma come ci metti dentro qualche cosa, ecco che cambia subito. Diventa torbida con lo zucchero, scura con l'aloe. Non ha importanza se per qualcuno è dolce e per altri no. Dipende dalle papille gustative delle singole persone. Non è più quella, però, perché non è più il niente, ma è qualche cosa in brutto. Come noi, io, lei. Nasciamo così, belli, perché non abbiamo niente dentro. Ma poi diventiamo adulti e ci intorpidiamo. Buone o cattive azioni dipende soltanto da come le considerano gli addetti ai lavori del momento, eh? Poi buone o cattive azioni sono soltanto una questione di gusto, in fondo. Ad ogni modo, brutti, questione di gusto, in fondo. Ad ogni modo, brutti, però. Guardate qua, eh? Questo rigagnolo d'acqua. L'acqua è sporca, però lo sporco resta in superficie. L'acqua filtra attraverso il terreno, sparisce e ritorna più bella di prima da una qualsiasi sorgente. E forse anche noi un giorno, quanto ce ne andiamo. Collega, lo sente, lo sente. Bieco connubio di esaltazione dottrinaria e di imbecillità spirituale. Milano operosa, ospita dei mostri. E voi, Bizzarri, li giustificate. Voi? Siete voi sovversivi che fate piangere Milano. Milano, la città civile, tradita nella sua larghezza e nella sua bontà, offesa nei suoi migliori sentimenti e nelle sue nobili tradizioni. Allora, la vogliamo fare una bella confessione come si deve? Non ho niente da confessare. Se hanno domande da farmi, vedrò di rispondere. Vorrei che confermaste il contenuto della vostra ideologia. È vero che voi, non credendo né in Dio né negli uomini, avete come fine la distruzione completa della nostra società? Scusi, ma non trovo pertinente. No, voglio rispondere invece. Ma noi non vogliamo la distruzione di nessuno. Noi vogliamo costruire quello che non esiste, che non è mai esistito. Vedono, parlavo spesso di queste cose col compagno che è stato arrestato con me. Lui non crede in niente, né nella vita, né nella morte. Soprattutto non crede che gli uomini possono riparare i mali derivanti dalla vita associata. Io no. Il prima della vita, il dopo della vita, sono congetture vaghe. Problemi che ognuno può risolvere da sé, ma la vita è qui. E siamo sempre in molti a viverla. Il concetto di libertà e di giustizia è nato insieme agli uomini e non può essere staccato da loro. Vedono, io non voglio tante cose. Io mi unisco ad altri uomini di buona volontà per costruire un po' di bene per tutti, sulla terra, per quelli che ci nascono e ci vivono sulla terra, per vincere quella caparbia volontà di sopraffazione, di emergere gli uni sugli altri, di mitizzarsi. Ah, è così, possiamo andare avanti per 3 giorni e tanti saluti a chi ha messo la bomba. Nega di avere collocato la bomba aldiana. Io vi ho ascoltato con attenzione. Ma ditemi, infine, voi la pensate in un certo modo? Quelli che non la pensano come voi, ed io sono naturalmente fra questi, perché sono dotato di senso pratico, sono vostri nemici. Ma no. È chiaro dunque che avete dei nemici. E che cosa ne fate di questi nemici? Vorrete pure combatterli, eliminarli? Ma no. Chi non capisce ora, capirà domani. E verrà con noi. A poco la volta, tutta l'umanità verrà con noi. E quando verrà questo famoso giorno dei nemici diventati tutti amici? Quel giorno verrà quando non sarà più possibile a pochi uomini soddisfare tutti i capricci della ricchezza, così per gli uomini come per le nazioni, quando nessuno proverà più l'angoscia di non saper provvedere alle più elementari necessità sue e della sua famiglia, quando i privilegi di pochi saranno annullati dall'uguaglianza, dalla fraternità. E come pensate di realizzare tutto questo? Con una lotta leale, civile, fatta di persuasione e di esempio, che porterà l'emancipazione dell'uomo da ogni schiavitù, economica e spirituale. Basta. Abbiamo perso del tempo. Non aprite più bocca, per favore, che mi avete seccato. Voi e la vostra vita sociale. Chiami l'appuntato, per piacere. Siete un uomo inutile, avete capito? Poveretti i vostri scolari. Ah, appuntato, togliamogli le manette, tanto a che servono, a dargli importanza e basta. E non rimandiamolo in cella, eh? Alle 6 buttiamolo fuori. Prima no, potrebbe incontrare qualche squadra di quelli che hanno i piedi per terra, i sani patrioti, dico, e beccarsi un fracco di legnate. Ma già neanche quelle ve meritate, tanto siete fumoso e scialbo. Ah, tornate a casa dritto, eh? E cercate di dire meno coglionerie. Ma io... Ma lei cosa? Fuori! Non potevo fare la figura del cretino. A chi avrei potuto darla a intendere che quello sarebbe stato capace di maneggiare bombe? Scusi, signor delegato, una notizia spiacevole. Che c'è, grane? L'altro, il Labaiani, è morto in cella. No, e ci mancava pure questo, ci mancava. E magari ci andava meglio quello. Dove lo trova adesso io un colpevole adatto? D'altra parte, col Bizzarri, che cosa ne potevo tirar fuori? Collega, mi dica, ho fatto bene o male a mollarlo? Benissimo. Non è che un socialista. Chi si ricorda del Diana la sera di un giorno di marzo? Dopo quel giorno un altro mattino dopo, c'è sempre un mattino dopo, c'è sempre un mattino dopo, e chiacchieriamo di ieri, poi del futuro si chiacchiera, ma il passato fu, se l'è portato lui, il mattino dopo. Hanno preso parte alla trasmissione Millì, Lorenzo Grechi, Luisa Granata, Paride Calunghi, Riccardo Pradella, Gianni Quillico, Miriam Crotti, Marco Balbi, Natale Ciravolo. Sono intervenuti Filippo Crivelli e Ciro Fontana. Musiche originali di Gino Negri. Versione radiofonica di Claudio Sestieri. Di vivere, ma anche l'oggi va. E te lo porta via, il mattino dopo, il mattino dopo, il mattino dopo, il mattino dopo, il mattino dopo.